Yes People, questo è Jolly Roger. Yes People, questo è Jolly Roger, buonasera a tutti e tutti, un piccolo ritardo, problemi prima di andare in onda, ma risolti con qualche minuto appunto di ritardo, quindi puntata del 10 febbraio, ci ritroviamo qui al Brancaleone come tutti i venerdì, come ricordato tutti i venerdì dalle 17 alle 18 Jolly Roger. Iniziamo questa nuova puntata, siamo in attesa del nostro ospite, il nostro amico Rasta Blanco dei Radici del Cemento, che a breve dovrebbe arrivare, e noi intanto iniziamo la nostra puntata con le nostre consuete rubriche. Salutiamo tutti e tutte gli amici e le amiche che frequentano lo spazio del Brancaleone, che ci ospita ormai da un anno a questa parte, e siamo contenti di proseguire questo nostro progetto. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche, colleghi e non, saluto la terza E del liceo linguistico, l'indirizzo linguistico del liceo Orazio, terza E, e niente, iniziamo questa nostra puntata che va praticamente da Sanremo a San Valentino, quindi iniziamo il nostro primo pezzo musicale. Visto si parla anche di Sanremo, anche loro quest'anno a Sanremo, e c'entra anche un po' San Valentino. Oh mamma mia, ci vuole la vita in sella, perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la vita in sella, pure che mi faccia vivere nel modo giusto e non così. Sono in preda a una psicosi, rischio una nevrosi. Mami, non posso continuare questo andazzo da funky gigolo. Ogni giorno sul mio palco recita lo stesso show di Puffa Gogo, Cristallo e Pino. Dolce vita però, spesso in stile Peppino e Totò. Le mie ex dicono che sono un bastardo, bugiardo, ma io gioco d'azzardo. La mia vita è un casino, ogni sera nel... Hey, away from the girl, okay? Cospirando manco si trattasse di una rapa in banca, per cacciar la bimba da portare in branda. Se pur la compagnia di pupe non ci manca, trattasi di avventuriere straniere, amori che si rivelano chimere. Le puoi vedere sparire alla luce del mattino come un sogno. Adesso basta, ora so di chi ho bisogno. Oh mamma mia, ci vuole la vita in sella, perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la vita in sella, una che mi faccia vivere nel modo giusto. Oh mamma mia, ci vuole la vita in sella, prima o poi io devo metterla sta testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la vita in sella, magari una che mi contraddica, qualsiasi cosa dica. Che non mi faccio uscire con gli amici e poi mi porti al cinema. Io lei ho la sua amica che mi ripeta, che mi chieda se ho bevuto, che quando sono affamato sia a dieta. Che non mi creda se sono sincero e se mente lei pretende che me la beva. Che mi telefona mentre sto lavorando e se le dico che al momento sono occupato ti richiamo. Quando la chiamo dice che non l'amo e fa l'offesa, che abbia la pretesa che ogni giorno io le faccio la sorpresa. Right. vuole un po' di disciplina, che mi obblighi a svegliarmi presto la mattina, che mi faccia stare un'ora a esaminare una vetrina, che quando danno un filmone in TV inviti gente a cena, che mi svegli per chiedermi se sto dormendo, che tenti di cambiarmi poi mi accusi di stare cambiando. Oh mamma mi ci vuole di danzare, perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mi ci vuole di danzare, una che mi faccia vivere nel modo giusto. Oh mamma mi ci vuole di danzare, perché io devo mettere la testa a posto. Una che mi faccia vivere nel modo giusto. Ma in fondo la mia vita non è poi malaccio, con i casini che faccio e qua in cui mi caccio. So che non è serio cambiare ogni sera, ma preferisco un overdose di libertà che una dose di galera. Cattivo con i nemici, con le bimbe e un agnellino, di pupe io del gangster di Chicago, persino al bar del Giambellino diceva anche ero un mago. Mi chiamava Drago, ma aspetta che ti spiego, forse la fidanzata non mi serve come prima ti dicevo. Continuano a fare zigzag, ma tu prende e vedi anche se c'è certo ballerine di città. Ad essere infantile ma così, fidanzare mette un'ingiustizia per la popolazione femminile. Quindi una alla volta, avanti c'è posto, questo è il modo che mi dà più gusto, quindi è quello giusto. Oh mamma mi ci vuole la vita, tesoro mi fa mettere la testa a posto. Oh mamma mi ci vuole la vita, perché per uno come me questo è il modo giusto. E ritorniamo in studio e ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger. Siamo partiti con qualche minuto di ritardo e siamo comunque in attesa del nostro ospite. Abbiamo iniziato la nostra puntata passando questo primo pezzo dell'articolo 31, ma volevamo esprimere la nostra solidarietà non solo come Jolly Roger ma anche come Pirate Radio a tutte le popolazioni colpite dal sisma. Cerchiamo in qualche modo di aiutarle il più possibile, visto che comunque riguarda un po' tutti. È stata una settimana lunga e fredda, ma ci riscaldiamo piano piano. Proseguiamo il nostro pezzo musicale e poi iniziamo questa nostra puntata con le consuete rubriche. Anche se un tot di gente ancora non ci crede, ancora non ci crede che io e la mia signorina stiamo bene insieme, bene insieme. Nella mia mano c'è un fiore, quando voglio un bacio me ne dà di più, dà di più. Abita al piano di sopra e dopo un po' mi dice Cico vieni su, vieni su. Voglio lei perché brucia sempre, è l'unica che vera veramente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Amore non ne vuole, amore non ne vuole, però la mia signorina cerca sempre il sole, cerca il sole. Mi lascia andare lontano, tanto poi lo sa che io ritorno qui, torno qui. E non c'è niente di strano se non ha bisogno di convincermi. Potrei anch'io fare il presidente, ma sto con lei e non mi manca niente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme, oh, bene insieme. Uh-huh. sono a Sanremo, come ha detto prima, questa è la settimana che va da Sanremo a San Valentino. E quindi passo un attimino il microfono alla nostra amica Alice, che ci racconta il suo Sanremo. Allora, Alice, dici un po', sei riuscita a vedere in questi giorni Sanremo? Sì. Raccontaci un po', dai. Sanremo mi è piaciuta tanto. La canzone che ti è piaciuta di più? La canzone che mi è piaciuta di più è di Ultimo. Vabbè, noi non siamo una brava trasmissione radiofonica e non passiamo pezzi di Sanremo, almeno per questa puntata. Mi piace Ultimo. Pure a Lucone, che è arrivato anche lui da poco, anche a Lucone piace Ultimo. A chi altro piace Ultimo? A nostra Elena, collega, piace Ultimo. Quindi vabbè, a te Ciccio piace Ultimo? Io so i suoi gusti, a lui piace Elodie, quindi tende dalla parte femminile. Detto questo, io non ho visto Sanremo, continuerò a non vedere Sanremo, ne sono fiero, un po' per non interesse, un po' perché... Mi piace Noemi. Ah, invece a Lucone ha detto che gli piace Noemi, quindi uno pari, e ritorniamo un attimino su argomentazioni più serie, anche se comunque stiamo parlando di musica, che è il filone di queste ultime puntate. E lui gli piace J-Ax anche quest'anno, proprio ormai abbiamo spoilerato tutto Sanremo, quindi proseguiamo con Sanremo. Allora, si avvicina il weekend, da bravo tifoso italiano medio, attendo questo momento perché il nostro amico Matteo ci farà i suoi pronostici. Sono contento che sia risorto da romanista il caso Zaniolo, finalmente un pensiero in meno, è andato in Turchia, caso strano, manco è andato, è arrivato il terremoto. Comunque, Ciccio, torniamo a noi, dici un po' i pronostici di questo weekend calcistico. Milan Torino, Pitti Torino, poi Empoli Petta Peter Persia, Lazio all'arbitro, la Lazio. Poi ultima partita? La Peter, Peter la Sappa, però. Mitico, mitico. E noi, visto che abbiamo detto che al nostro amico Matteo piace Elodie, passiamo un pezzo di Elodie. E se mi cerco, penso a che cosa vorrei. Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei. Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo. Non mi giudicare se perdo il controllo. Che prezzo ha la mia libertà? Ah, ah, più del tuo cash, della tua metà. Ah, ah, ah. Se mi guardi così io non ti riconosco. Se mancherà l'aria mi dirò. Ok, respira. So che può ferire, ma la mia verità mi guarirà alla fine. Ho tutto il mio spazio qua, non mi sposto rosa par. Nessuno dimentica. Che prezzo ha la mia libertà? Ah, ah, più del tuo cash, della tua metà. Ah, ah, ah. Se mi guardi così io non ti riconosco. Se mancherà l'aria mi dirò. Il sole va la notte e mi innamoro di me, innamoro di me, mi innamoro di me. Mi rinnamoro di me da sola e riflessa lo specchio, incontrerò una faccia nuova, la luce che ne... ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger, fra una chiacchiera un'altra. Siamo in attesa del nostro ospite. Abbiamo fatto il nostro pronostico del weekend calcistico. Noi invitiamo tutte le persone che giocano e che soprattutto giocano i risultati del nostro amico Matteo. Noi siamo un programma aperto, siamo al Brancaleone, come sapete tutti, dalle 17 alle 18, quindi se volete portarci, offrirci qualcosa, ci farebbe molto piacere. Detto questo, passo il mic al nostro amico Luca. Buonasera a tutti, sono Luca e ora vi parlo delle offerte nei supermercati Pewex. 7 Up a 1 euro, Amica Chips a 50 centesimi, Twix a 2 euro, caramelle Haribo Happy Cola a 1,50 euro. E ritorniamo qui in diretta. Il nostro amico Luca ci ha dato le sue chicche a riguardo, le sue consigli per acquisti. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta. Quando arrivo alla tua festa, mollami. Se prima non hai la fresca, mollami. La PS che mi stressa, mollami. Mi ritira la licenza, mollami. Bebe tu mi dici resta, mollami. Vogliono che lui mi arresta, mollami. Pensano che sono un gangsta, mollami. Ma sono G.U.E. Fa muovere quei beat, sono un professional. Questi rapper stanno muti, sono il G-National. Mollami se pensi che sei famosa, ma non è uguale. Si fermano gli orologi se arrivo con la fama. Ma mollami, se poi mi parli solo di soldi, attirerai soltanto la guardia e balordi. Mentre tutti gli altri rapper sono in danger, tengo la collana, brillo in mezzo alla gente. Vengo in peace, vengo per fare business. Intanto queste tipe lo muovono come il fitness. Spingo fino a che il club non si rompe. Suonano le trombe quando arrivo alla tua festa. Se prima non hai la fresca, molla. La PS che mi stressa, molla. Mi ritira la licenza, molla. Bebe tu mi dici resta, molla. Vogliono che lui mi arresta, molla. Pensano che sono un gangsta, molla. Ma sono G.U.E. Se ti pensi come Cupido, tu sei un G da studio, giri con uno stupido. Sei patac, no patac, sono real, fammi un check. Mollami se vuoi stare solo nel back. Molla quel telefono se stai facendo un video. Mollo questa bitch se snicciassi senza dire oh. Parlo e cammino come un campione, connesso la strada come un lampione. Mollami, non sai usare quella beretta. Mollami, la tua canzone non mi interessa. Mollami, scrivi Miami ma sei di Brescia. Mollami, dal vivo sei tutta diversa. Mollami, voglio una tipa che mi flasha. Mollami, non una tipa che mi pressa. Mollami, solo hit in scaletta. Mollami, mollami. Rewind Selecta. Quando arrivo alla tua festa, mollami. Se prima non hai la fresca, mollami. La PS che mi stressa, mollami. Mi ritira la licenza, mollami. Bebe tu mi dici resta, mollami. Vogliono che lui mi arresta, mollami. Pensano che sono un gangsta, mollami. Ma sono G.U.E. E ritorniamo in diretta. Questo era un pezzo nuovo di Ghe, scelto dal nostro amico Matteo. Nel frattempo è arrivato il nostro ospite, ma la nostra guest, che è il nostro amico Luca, si era scordato che è il momento delle battute. Hanno rubato un tir pieno di lampadine, la polizia brancola nel buio. Ottimista affoga in una vasca mezza piena. Signor giudice, c'è una gallina fuori dal tribunale che vorrebbe deporre. Ho preso così tante medicine che ogni volta che tossisco guarisco qualcuno. Il nostro amico Luca ogni weekend si supera. Andiamo con un pezzo scelto da lui e poi iniziamo quella che è il nostro racconto con il nostro amico Giorgio Aga Rasta Blanco. You're okay. It's too bad your doors can't be locked to keep the monsters away. You check behind the door, there's nothing there no more. You should have stayed in bed. You've heard this noise before. You dart across the floor. Try not to lose your head. Prepare for the horrors. This night will keep repeating over and over. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18, in diretta, come abbiamo detto a inizio puntata e come rivediamo dal Brancaleone. Ora passo il mic ai ragazzi, intanto passo, prima di passarlo ai ragazzi, lo passo al nostro ospite Giorgio e niente, passo la palla a lui. Che devo dire? Vabbè, buonasera a tutti innanzitutto e grazie per l'invito. A tutti quanti, è un piacere finalmente così, fare, essere parte di questo progetto che io avevo visto insomma in fase embrionale e poi invece vi ritrovo in fase diciamo esplosiva, quindi molto bene, complimenti e niente, mi fa piacere essere qua, non so esattamente che faremo però dai. Ci faremo una piacevole chiacchierata, ragazzi, vabbè, a parte chi non conosceva ha iniziato a conoscere Giorgio, quindi magari questa è una piacevole chiacchierata anche per toglierci qualche curiosità, per toglierla anche a qualcuno che magari ci ascolta e quindi iniziamo, dai. Ciao Giorgio, come stai? Qual è il tuo nome d'arte e perché l'hai scelto? Allora, Alice, giusto? Sì. Ciao Alice, sto bene, grazie, spero anche tu. E il mio nome d'arte è Rasta Blanco, ma più che un nome d'arte è un soprannome, perché che mi venne dato da un cantante reggae, qui è il genere musicale che facciamo noi, moltissimi anni fa, quando ci suonammo, avemmo l'occasione di suonare con lui, facemmo una tournée con lui, e lui, essendo abituato a vedere, diciamo, quelli come, che hanno questi capelli un po' strani come me, tutti di colore, perché viveva in Inghilterra, trovandosene davanti uno non di colore, col suo slang un po' spagnolo, perché era di origine cubana, mi chiamò Rasta Blanco, e da quel momento è rimasto come, più che un nome d'arte, è un soprannome che mi piace tenere, anche perché lui non c'è più, e quindi è anche una forma di ricordo verso questa persona, verso questo artista, Lori Lightken, che sicuramente qualcuno forse conosce. Grazie, Alice. Perfetto, allora, seconda domanda. Come avete creato la vostra band? La vostra panda, direi. Tra l'altro banda mi sembra appropriato come... E dunque, la nostra banda è nata nei primi anni 90, eravamo due gruppi di amici, un po' come voi, un gruppo si trovava a Ostia, un altro gruppo si trovava dalle parti di Fiumicino, ci siamo conosciuti un po' casualmente, uscivamo insieme, giocavamo a pallone, facevamo queste cose qua. Da giovani, esatto, cose si faceva da giovani una volta, perché esatto. Adesso da giovani si fa altro. E niente, tra le altre cose che ci è venuto in mente di fare, ho detto, mettiamo su un gruppo, dai, tu che so, ci siamo scelti gli strumenti un po' a casaccio, e niente, così è nato il gruppo, che dopo quasi 30 anni ancora sta qui, anche se quelli che l'hanno formato al suo tempo, non, quasi tutti insomma sono un po' sparpagliati, però è nato così, per amicizia, diciamo. Perfetto, un po' come è nato Jolly Roger, in amicizia. Allora, noi passiamo intanto un pezzo del Risarcimento, così facciamo prendere un po' di fiato a Giorgio e poi ritorniamo in diretta sempre con Jolly Roger. Non ci vengo perché sono goffo e anche un po' impacciato, perciò col cristallo non ci faccio granché. Amico metallino, non picchiarmi in sé, al concerto heavy metal non ci vengo perché il metallo io non lo ballo, non mi sento sciallo e lo sai perché. C'è solo un ritmo che mi fa sentire nice, c'è solo un ritmo che mi fa sentire fine, c'è solo un ritmo che mi fa sentire alright, c'è solo un ritmo che fa per me reggae ska, ma non vivo reggae ska, la mia pensa è reggae ska, pane e olio reggae ska. A un certo punto arrivi tu, la donna t'ha piantato e tu ci pianti un blues, la tua pentatonica è come una birra analcolica, la bevi te. Questa strofa è per l'amico in jazz, quando tu suoni non capisco un gas, per il funky poi c'è i piedi stanchi, mi vengono i calli, perciò do forfè. C'è solo un ritmo che mi fa sentire nice, c'è solo un ritmo che mi fa sentire fine, c'è solo un ritmo che mi fa sentire alright, c'è solo un ritmo che fa per me reggae ska, ma non bevo reggae ska, la mia benza è reggae ska, pane e olio reggae ska. Sono pratico, io con la disco mi ci intristisco, Al terzo brano mi stucca l'hip hop, non c'ho il fisico per reggaeton. C'è solo un ritmo che mi fa sentire nice, c'è solo un ritmo che mi fa sentire fine, c'è solo un ritmo che mi fa sentire alright, c'è solo un ritmo che fa per me reggae ska. Magno bevo reggae ska, la mia benza è reggae ska, pane e olio reggae ska, reggae ska. Magno bevo reggae ska, la mia benza è reggae ska, pane e olio reggae ska. E ritorniamo in diretta. Questo era il primo pezzo dei Radici del Cemento, Reggae Ska. Si parla, come consuetudine, di musica. La settimana scorsa è stato ospite il nostro amico Daniele Savelli, che salutiamo, ci ha raccontato qualche chicca su Rino Gaetano. Stiamo parlando di cos'è la musicoterapia secondo noi, gli effetti benevoli e gli effetti che ci fa sull'umore la musica. Quindi torniamo con le nostre domande al nostro amico Rasta Blanco. Che scrivi la musica con una parola? Descrivi la musica con una parola. Ah, Gio, qui abbiamo studiato, pensavi che venivi qua a pettinare bambole. Sì, è un po' una marzulliana, una marzullata. Io vorrei evitare di essere troppo scontato, per dire cose troppo scontate. Musica con una parola, io dico un gavettone. Vedi, questo ci mancava. Un gavettone. Gavettone. Una parola. Che sono due? Un gavettone sono due parole, però se non ci formalizziamo davanti agli articoli e andiamo avanti, vai. No, no, il voto lo famo mettere, ti preoccupare. Raccoci nel tuo laboratorio di musica. Raccontaci del tuo laboratorio di musica, perché i ragazzi hanno saputo, perché qualcuno parla, che fai un laboratorio di musica, quindi volevano capire con te cosa fai. Di sicuro mi ha detto Chiara, perché sicuramente avrebbe detto... Beh, siamo un gruppo un po' come voi. No, vabbè, scusa, peggio ovviamente di voi. Che è come se, immagina che fossimo un gruppo musicale, in cui ognuno dei ragazzi, dei ragazzi che ne fanno parte, cerca di partecipare alla musica attraverso le sue capacità, che possono essere anche molto grandi, ma anche non sufficienti, o anche quello che è possibile dare, insomma, no? E abbiamo anche, fortunatamente, una violinista, un percussionista, abbiamo anche persone che sanno cantare bene, ma anche persone che semplicemente partecipano con la loro presenza, ci danno la loro simpatia e via dicendo. Tipo me, esatto. E quindi sì, immagina che sia una... Hai visto i gruppi che vedi in televisione? Siamo come loro, però facciamo insomma del nostro meglio per tirar fuori qualcosa di carino, passare il tempo, divertirci e stare insieme. Anche... Sì, sì, facciamo questa da qualche anno, abbiamo questa modalità di incidere un disco alla fine di ogni stagione. Più che altro come un ricordo del lavoro che è stato fatto, insomma, non perché ci vogliamo fare venderlo cose, però insomma è un ricordino che i ragazzi poi si portano a casa con i loro nomi, con le foto, quindi è un modo, una testimonianza del lavoro che hanno fatto, insomma. Grazie, Matteo. Oh, si ricorda il nome e soprattutto sa che è dalla Lazio, ma non diciamo il perché è dalla Lazio, però è ben visibile come sempre. E noi passiamo un altro pezzo di Giorgio. Lui ci ha detto che per lui la musica è un gavettone. Io avevo detto che era un insieme di... Mo non mi ricordo bene la parola. Un insieme, avevo detto, così vagamente. Ma passiamo un pezzo che si chiama Libera. Libera. che non ci unisce, che ci divide. Chi vuole mettere catene al cielo, chi non rispetta la diversità. E dimmi perché non guardi oltre questo mare, perché hai paura di incontrare quello che c'è di là. Chiuso nel tuo mondo, tu non ti accorgi che tutto sta cambiando proprio qui davanti a te. Vuoi, vuoi, vuoi, libera, libera, vuoi, vuoi, vuoi, la tua mentalità. Vuoi, vuoi, vuoi, libera, libera, vuoi, vuoi, vuoi, la tua mentalità. Differenza ci può arricchire, unire, mischiare, scoprire, cambiare, questa si chiama civiltà. Prova a pensare a un cielo che non sia più solo bianco o nero, mille culture come sfumature di una caleidoscopica società. C'è quel diffidente, tu non ti accorgi che un mondo sta nascendo mentre tu stai lì con te. Vuoi, vuoi, vuoi, libera, libera, vuoi, vuoi, vuoi, la tua mentalità. Vuoi, vuoi, vuoi, libera, libera, vuoi, vuoi, vuoi, la tua mentalità. Jolly Roger, stiamo facendo una piacevole chiacchierata con il nostro Rasta Blanco e ora proseguiamo le nostre domande. Come gestisci il tuo lavoro e la tua carriera da musicista? Allora, ti dico, grazie Luca, diciamo che in alcuni momenti della mia vita, della nostra storia, è stato un po' complicato, perché i concerti erano molti di più di quelli che si fanno adesso, in generale, e quindi era un po' complicato gestire le due cose. Diciamo, da un po' di anni a questa parte è diventato più semplice, perché il numero di concerti che si fanno dal vivo, proprio non solo per noi, ma insomma un po' in generale, il movimento musicale live si è un po' spento, diciamo, un po' ammosciato, e quindi questo mi consente di gestire un po' meglio tutte e due le cose. Qualche volta devo fare un po' di numeri per fare un po' tutte e due, però insomma per adesso si riesce a fare bene, dai, grazie. Raccontaci le tue esperienze con la radio. Quanto tempo c'ho? Tutto quello che ti pare. Ma guarda, ti dico, sono state di radio, ne abbiamo girate tante, ovviamente, perché sono quasi 30 anni che suoniamo, quindi poi ogni volta che esce un disco, ogni volta c'è una cosa più o meno. Pure da Otello siamo stati su a Bergamo con gli amici di Bergamo Reggae. E, diciamo, forse la più carina è stata Radio DJ, quando andammo al Trio Medusa, perché loro, insomma, sono simpatici loro per prima di tutto, quindi siamo andati lì a presentare Bella Ciccia, è stata divertente, a parte il fatto strettamente musicale, loro sono proprio simpatici. Beh, Morfire, quella è stata la parte trash della nostra carriera radiofonica, sì, che però non so praticamente niente di quello che abbiamo fatto, si può, penso, ripetere questa fascia oraria, quindi sì, no. Sì. Diciamo che ci siamo divertiti, quello sì, sicuramente sì. Dal punto di vista del divertimento, la Onda Rossa è stata... Un bel parco giochi. Beh, sì, e poi insomma anche riusciamo anche a infilare tra una stupidaggine e l'altra anche affrontare tematiche abbastanza importanti, insomma. Soprattutto alle 11 di sera. Sì, dalle 11 poi andavamo via alle 2, insomma. No, era... Quando ci cacciavano. Era bello che arrivava gente anche non invitata, esatto, che portava cose, no? Insomma, anche da mangiare. Era, insomma, un happening aperto, quindi... No, beh, quello è indimenticabile. Però, sì, ne abbiamo fatte tante. Magari adesso me ne scordo anche qualcuna particolarmente figa, però... Non mi trovo moltissimo a mio agio, però insomma ci siamo divertiti in radio, dai. Grazie, Lu. Perfetto, e noi passiamo un altro pezzo di Giorgio e poi ritorniamo qui in diretta. Dal cemento io non m'accontento, col pensiero volo in alto, spengo tutto e parto. Portami laggiù dove il freddo non c'è più, dove il vento soffia caldo e la montagna è blu. Sognando un po' già. La mia fantasia, io che non so cos'è volare, ti trascino via, via da qua giù, verso il cielo che vuoi tu, dove suona questa musica e il mare blu. Sognando un po' già. Sotto questo sole, ora mi accontento, attraverso questo cielo, nuoto contro vento. Oggi no, non parto più, me ne resto un po' qua giù, dove il mare non è bello, però ci sei tu, sognando un po' già. Nel cemento adesso fate oh, oh, oh. Se vi piace radici nel cemento adesso fate oh, oh, oh. Se vi piace radici nel cemento, adesso fate oh. Mi piace radici nel cemento, adesso fate oh. Fate oh. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Che la Giamaica non è soltanto sollevare rasti culo. Ok gente, noi abbiamo quasi finito per questa sera. Vi salutiamo e vi ringraziamo, rinnovando il nostro impegno contro ogni forma di intolleranza, contro ogni forma di razzismo, contro ogni forma di fascismo, omofobia, xenofobia, soprattutto se applicata alla musica reggae, che è la musica che noi amiamo, sì! Occhio, che la Giamaica non è soltanto suore male rasta leghe. Occhio, che la Giamaica non dà soltanto rum e marijuana da fuma. Occhio, che la Giamaica non è soltanto sole male rasta leghe. Occhio, che la Giamaica non dà soltanto rum e marijuana. Perché Giamaica se muore per le strade, e i fischelli se viene accoltellate, e le fatte girano armate, volano pizze, pizze e pistolettate, e se parla sempre più americano, e non si sente più il giamaicano, e te conviene sapere dove vai, se sei bianco non ce lo sai, e te conviene sapere dove sei, se per caso sei donna o sei gay, e te conviene sapere che stai a fa, che una pregnaccia qui nulla puoi fa, le tende dritte e le orecchie accorte, qui c'è sta pure la vena di morte. Occhio, che la Giamaica non è soltanto sole male rasta reggae. Occhio, che la Giamaica non dà soltanto rum e marijuana da fuma. Occhio, occhio, occhio, occhio, occhio. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, siamo a sgoccioli della puntata, ci siamo fatti una piacevole chiacchierata con Giorgio e ora abbiamo il nostro amico Lucone, che a parte mi sta praticamente sopra, perché porello, cioè io confronto so una coscia, gli passo il microfono immediatamente, con questa faccia non posso farti passare io il microfono. Vai con una domanda. Che spada sei? È stato anche subdolo, perché in realtà lo sa, ma ha fatto niente non saperlo. Vabbè, io sono purtroppo non so se si può dire nella fascia protetta, siamo ancora in fascia protetta. Sono della Juventus. Perché? Vabbè, diciamo che si diventa tifosi delle squadre di calcio, premessa, si diventa tifosi credo quando si è in un'età, diciamo, si fa fatica a capire molto bene quello che si sta facendo. E io ero ragazzi, ero piccoletto e siccome sono un po' datato, mi portarono a vedere tra l'altro una partita della Lazio contro la Juventus negli anni 80. E niente, io mi infatuai di questo giocatore che forse tu non conosci perché sei giovane, si chiamava Platini. Non so se ne hai mai sentito nominare. Era un francese che giocava nella Juve. Era un tipo un po' particolare, un po' estroso, un po' matto. E niente, io così simpatizzai per questo giocatore e quindi per quella squadra, senza sapere che cosa rappresentasse poi questa squadra in Italia, nell'immaginario collettivo e tutto quanto. Quindi poi la squadra, una volta che te prende, non te lascia, quindi mi accollo tutte le conseguenze del caso, insomma anche le responsabilità politiche della cosa. Vabbè dai, tutto sommato ti va bene, abbiamo accettato anche i laziali in radio, quindi va bene così. Poi detto sinceramente, noi di Jolly Roger, anzi io e Matteo, siamo proprio il classico esempio che romanisti e laziali possono convivere purché non parlino di calcio, questa è la cosa più importante. A parte le cose serie, torniamo con l'ultima domanda che faccio io a Giorgio. A parte ringraziarlo per essere venuto e essere intervenuto non solo come collega, come amico, ma anche come cantante, la domanda è questa: suonare in alcuni spazi vi dà più libertà o meno libertà? Ah, domandaccia della seduta alla fine. Domandaccia alla fine, appunto. Ma guarda, è difficile rispondere, ma non perché non ti voglio rispondere, perché non, la domanda non meriti. Anzi, la domanda merita talmente tanto che è difficile dare una risposta univoca, perché gli spazi sono talmente tanti, anche quando nomini spazi dici... Esatto. Usi un termine che comprende in realtà una molteplicità di realtà. Io ti posso rispondere in maniera un po' paracula, se mi consenti, dicendo che noi abbiamo... ha avuto la fortuna di poter sempre comunque fare quello che abbiamo voluto, cioè non abbiamo mai sentito limitazioni di nessun tipo, anche quando siamo stati in contesti, diciamo, meno vicini, insomma, all'area che conosciamo e tutto quanto, e anche dal punto di vista delle produzioni non abbiamo mai avuto nessuno che ci mettesse il fialo sul collo, né sulla tempistica né sui contenuti, quindi da questo punto di vista siamo stati fortunati. È capitato in situazioni magari, ecco, di piazza o feste più o meno organizzate, che qualche volta ci venissero a proibire l'esecuzione di alcune canzoni, quelle sul tema, diciamo, delle droghe leggere, dico per dire, o altre volte scarabiniere per questioni di opportunità, però noi ce ne siamo sempre abbastanza fregati. Però rispondere in maniera univoca alla tua domanda è difficile, perché diciamo, in 30 anni ne abbiamo viste negli spazi di ogni, veramente da un estremo quasi all'altro. Quindi comunque direi di no, per rispondere direi che sicuramente non ci siamo trovati meno limitati, più limitati negli spazi, assolutamente no, però in un contesto in cui abbiamo avuto la fortuna di fare un po' questo ovunque, a prescindere dalla location, insomma, non abbiamo avuto per fortuna... produttori o censure, forse non abbiamo neanche suonato in palchi che censuravano, dico per dire il primo maggio, no? Che devi firmare liberatoria, non puoi parlare male di quello, non c'è stato mai, neanche ci è mai capitato, per cui diciamo noi ce la siamo sempre, abbiamo sempre detto quello che ci andava, probabilmente anche, ma forse ne abbiamo pure pagato un po' le conseguenze in qualche situazione, però tant'è, ormai è così, è andata così, e ce la teniamo così. Io approfitto per salutarvi, che state in chiusura. Sì, no, l'ultima cosa, se ci vuoi spoilerare qualche data dove vedervi live, come Radice del Cemento, ovviamente non solo a Roma, visto che comunque fortunatamente qualcun altro fuori Roma ci ascolta. Guarda, io lo farei volentieri, ma il calendario nostro è tutto da fare. Perché stiamo per uscire con in primavera dovremmo uscire con un singolo nuovo, che era quello che allora. Spoileriamo questo, io peraltro avrei voluto spoilerare al top portandovi in anteprima, ma stiamo proprio finendo. Sì, non ci siamo ridati, cioè da due settimane ce l'avrei avuto in mano, adesso ancora non è pronto, però diciamo a cavallo e al lancio di questo singolo speriamo di costruire un calendario per primavera estate importante, sicuramente migliore degli ultimi anni, perché comunque tra Covid e tutto il resto è stato un po' difficile portare avanti il carrozzone Radici, perché comunque come sai è un gruppo anche numeroso, quindi suonare al top full band non è semplice, anche fuori Roma abbiamo fatto dei bei festival, tra cui ecco anche Bergamo, ma insomma non molti, ecco, belli ma non moltissimi, quindi speriamo di avere un buon calendario e magari quando ci rivediamo di poter spoilerare qualche data. Esatto. Perfetto, Giorgio, ti ringrazio per essere stato qui con noi, siamo arrivati in chiusura della nostra puntata, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche. Ci potete riascoltare tramite podcast che girerò al nostro amico Giorgio. Intanto ci ha detto che tornerà a trovarci sicuramente in bolla, che prima o poi ritorneremo per motivi di organizzazione. E niente, quindi vi auguro un buon weekend a tutti e a tutte. Un abbraccio e un buon weekend. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti e buona serata, a venerdì prossimo. Dai e forte, questo è Jolly Roger. Set your body ablaze, your body ablaze. Me and you, baby, set your body ablaze. Set your body ablaze, your body.